artista, bisogna inventarsi un personaggio, è questo che faccio, creo scenari visionari in cui perdersi, artista surrealista, non ti basta la ragione, la mia piazza dettirico è la mia follia, la mia pazzia è che mi ci sono perso dentro, guardo immagini riflesse su un vetro, immaginifica, le parole intrecciandosi si fanno senso, sì, ma artistico. Artista, questo è il mio lavoro, è questo che faccio, creo scenari visionari in cui perdersi, artista surrealista, non ti basta la ragione, la mia piazza de Chirico, la mia pazzia è che mi ci sono perso dentro, guardo immagini riflesse su un vetro, immaginifica, le parole intrecciandosi si fanno senso, sì ma artistico. Artista, arrivo dove tutti aspettano, l'oltre è il mio regno, dialogo tra la morte e la vita, elogio a tutta la musica, fan numero uno della figa, mentre stendo una riga, strafatto di coca, stato di chiaro veggenza, le porte aperte, uccido la sorveglianza, entro senza permesso, mentre tu chiedi scusa, posso? Come in Point Break è una rapina, il mio giorno migliore è di ordinaria follia, sputo sul purismo, spa! Della tecnica, sono sopra la base tipo fase di decollo, vedo giallo, la mia mente è una bolla, stronza strilla, eretico, sfido Dio alla creazione, mitica, dal nulla, ermetico, chiuso in me non esco, cerco l'illuminazione, quando mi apro parlo esplodendo, aperto al conflitto col mondo, con la maglietica politica di verità, ascetico e ascianti, Lorenzo il Magnifico guida le truppe del deserto verso l'ignoto, buio pesto, vedo figure su sfondo nero, pasta al pesto, sputo sul purismo, spa! Della tecnica, sono sopra la base tipo fase di decollo, vedo giallo, la mia mente è una bolla, stronza strilla, eretico, sfido alla creazione, miticizzazione dal nulla, ermetico, chiuso in me stesso non esco, cerco l'illuminazione, in contatto alieno con Dio, quando mi apro parlo esplodendo, aperto conflitto col mondo, con la maietica, politica di verità, ascetico e ascianti, Lorenzo il Magnifico, guida le truppe del deserto verso l'ignoto buio pesto, vedo figure su sfondo nero, pasta al pesto. Artista dantesco, esco dai gironi infernali, polemica delle arti come Piero Manzoni, merda d'artista, la mia o la tua, tu sei solo noto, io sono nato con un talento, tu uomo, io Dio, firmo col fango, modelle stile pan chic, incontro Gucci per fare un featuring. Artista dantesco, esco dai gironi infernali, polemica delle arti, Piero Manzoni, merda d'artista la mia o la tua, tu sei nato noto, io sono nato con un talento, tu uomo, io Dio, firmo con fango, modelle stile pan chic, incontro Gucci per fare un featuring.